c'ho una bella pallottola di grasso di cuscinetti sopra. Dillo a Luca quando abbiamo pulito il PL, che abbiamo smontato la direttiva, gliel'ho fatti vedere, guarda questi PL, e dove erano? Staccati all'antenna, lucidi come il giorno che li ho messi, capito? Lucidi, staccati a mano, non con la pinza, capito? Poi dove c'è la spirale, lì va tutto praticamente sempre lubrificato, io l'ho scesa quest'estate, mollo, abbasso, faccio le manutenzioni e la tiro su. Capito? Tutto a testa d'uomo, tutto a regola d'arte, se no fai un casino niente e l'antenna non ti durerà mai. Avanti California. Vai Giulio, vai. Ok. Certo. Ma io vuol dire che in tutti questi anni di frequenza le antenne che ho avuto sono, la prima era una Grand Plane 5D20, 5 radiali, da un quarto d'onda, sì, da un quarto d'onda, una Grand Plane, una semplice antenna. La seconda era una Stellar, la Stellar l'ho tenuta 30 anni come minimo, anche di più. Fin quando non sono caduti quasi tutti i radiali non l'ho tolta, anche quella come struttura meccanica straordinaria, anche quella, nonostante che lo stilo centrale non è molto, molto robusto come sezione, è abbastanza sottile, però è durata una vita intera. Poi la Mantova Turbo e adesso la Game Master, praticamente 49 anni di frequenza, 4 antenne, e sempre senza mai un tirante, mai, io non ho mai messo un tirante, però tubo sempre più che sufficiente, perché si mantiene l'antenna e soprattutto il tubo, il palo, quello deve essere ben messo e resistente, come stava dicendo appunto Roberto poc'anzi, se no l'effetto frusta, allora sì che te lo butta giù lo stilo centrale. Avanti Roberto. Sì, è normale, poi è inutile fare economia su queste cose, devi fare una cosa che non raddocchi, poi li fa le manutenzioni ogni tanto, i tiranti, io ho tutti i tiranti in nylon, quello non è nylon coso, la corda è nylon, parliamo con la corda nautica chiusa per le cime, con tutti i regolatori di tensione, ogni tanto vado a controllo. Poi nel braccio quello che ho fatto, che mi hai detto tu, io ho messo il cavo d'acciaio da 6 o da, adesso mi ricordo se da 6 o da, forse da 8, attaccato a parete tirante in modo che rimanga bello stabilizzato sul cemento armato con le piastre. Da quel punto di vista, poi come ha detto Claudio, bella lubrificata bene l'antenna, io l'ho riempita completamente di grasso di vasellina, tutta sia dentro lì i telescopi, diciamo come le chiami tu, le parti lineette di ogni elemento dell'antenna della Mantova, poi il connettore dove attacca il piede, l'ho stato tutto lubrificato bene, riempito di coso, ed è il sistema migliore, e grazie a Dio l'antenna mia la vedi bella lucida, pulita, e sono sicuro se la smonto riesco a smontarla senza rompere niente, perché poi si incolla l'alluminio anodizzato, già come lo infili dentro si toglie con la protezione e si incolla, ossida, ci vuole martello e scalpello per tullio. Già ne sa qualcosa Claudio, quando è venuto l'ufficio abbiamo tolto al cannello per scaldarlo l'alluminio, perché poi si allarga, si cementa e non c'è niente da fare. Poi la mia, ho fatto quel lavoro di ricostruzione di tutta la bobina d'avvolgimento, rifatto con lo stesso spessore, il stesso numero di sfide, e l'attacco di PL l'avevo messo nuovo, di quelli Amphenol, saldato bene, perché mi aveva creato problemi, si era rotto dentro, non so se vi ricordate, rifatta totalmente nuova con i rivetti, cioè con le viti passate in acciaio inox, anziché usare quei rivettini cagati che c'erano in origine, e ti posso dire, penso che lavori per tanti anni ancora, se Dio vuole. Ok, devo aggiungere nient'altro, mi pare di no, passiamo il mic a Claudio. Avanti a te Claudio. Sì, cappa. Lasciate un attimo di bianco. Così è, no, io non ne ho mai avuto problemi con le antenne, mai. E quelle che mi hanno chiamato a dare una mano a montarle, le ho montate, come dicevo io, sono sempre in piedi. Sempre. Capito? Io allora ho iniziato nel 74 a casa di mia madre a Porto Torrege, ho avuto la Standaster per un po' di anni. Poi è uscita la Super Range Bus, che è simile alla Mantova, ma molto molto più di materiale, insomma, era molto buono, però un po' più fine, e basta, e ho tenuto sempre la Super Range Bus. Quando sono sono arrivato a Sassari nell'83 e avevo montato la prima Mantova 1. Ok? La Mantova 1. Ho montato la Mantova 1, l'ho lasciata un bel po' di anni, poi l'avevo tolta perché era vecchia, avevo comprato la Mantova Turbo non mi piaceva, avevo ripreso la Mantova 5, poi non mi ricordo che cosa era successo, sì, ha fatto i suoi anni lo stesso, l'avevo tolta, i pali, tutta la palificazione della Mantova, perché non era assolutamente rotta, era solo vecchia, la volta Fabrizio aveva realizzato un'antenna verticale HF, e io mi sono ricomprato la Mantova 1 ed è sempre qua, che ce l'ho già 12 anni sul tetto, ogni 2-3 anni abbasso, la lubrifico, la pulisco, la tiro su, è sempre come il giorno che l'ho fatta, addirittura tolgo tutto il nastro vulcanizzante vecchio, le fascette sono in acciaio inossidabile della Wurti, sono favolose, le mollo col cacciavite, gli elementi li tolgo, li ripulisco, li ripiazzo, rivulcanizzo tutto e la rimonto, come che la stai rifacendo da zero, capite? E mai avuto problema di antenna, di pali non si discute neanche perché io non ho mai usato pali del cacchio, sempre pali, quello che ho io è schedula 40, l'ho detto a 3 pollici, a 1,5 pollici, perciò non è in acciaio inossidabile, è zingato, ma è come il giorno che l'ho montato, già l'hanno visto, potete chiedere, però praticamente la bulloneria deve essere buona, perché se hai bulloneria del cacchio, poi quando vai a smontare, non è buco che bevi, ma culo svitto, avanti Giulio. Infatti è così che deve essere, perché se no poi vai a smontare e diventa un problema, soprattutto l'antenna che si ossida, quando si ossida l'alluminio è come se fosse saldato, è difficilissimo poi da smontare, per cui è così. Anzi, addirittura il primo palo che ho fatto, io mi ricordo, ma sto parlando di tantissimi anni fa, ce l'avevo a cerniera. Cosa intendo dire? Che avevo 50 centimetri iniziali del palo, poi avevo usato una chiave in acciaio inossidabile che me l'aveva data sempre Giulio, e ci ho messo un perno e poi naturalmente da Giulio saldami questo coso qua, me l'ha saldato, e quando dovevo fare manutenzione per l'antenna prendevo, tiravo su 10 cm ancora il palo e abbassandomi rimaneva il palo, tutta la lunghezza del palo compresa l'antenna, con i radiali che non toccavano nemmeno sul tetto perché lo giravo dalla parte della pendenza dove diventa più bassa da casa, e rimanevo orizzontale, facevo il lavoro che dovevo fare e dopodiché tiravo su di nuovo e di nuovo fissato, abbassavo quei 10 cm, stringevo i bulloni. Perché tutto questo? Perché avevo, e ce l'ho ancora quel sistema, un master, e dentro questo master entra il tubo, sicché cosa succedeva? Tiravo su, tiravo e liberavo la possibilità di fare il lavoro la cerniera, no? Quando poi mollavo, quando poi abbassavo, rimaneva orizzontale, proprio perfetta, solo che tra palo e antenna ci usciva sopra il tetto delle altre case, perché era troppo lungo. Poi dopo un po' mi sono stancato di averla così, e allora ho optato per il tubo a cannocchiale, perché la soluzione è migliore. Anche quello lo abbasso all'altezza dell'uomo, lo abbasso, tiro su le mani e svito il PL, senza bisogno nemmeno di uno sgabello, per dire, no? Avanti, va bene. Sì, ma l'avevi già detto di questo fatto, è un sistema molto comodo per lavorare, eccetera, eccetera. Niente, da eccepire. Lasciamo un attimino il bianco, vediamo se nel frattempo è rientrato qualcuno, se no l'audio a te il mic. No, mi sembra che siano ancora tutti indaffarati. No, quando parliamo di queste cose, cioè voi mangi immaginatevi, io abito in un mini grattacielo di 10 piani, perché sono 9 più la mansarda, sono 10, perché la mansarda è abitabile. Quindi un palazzo di 10 piani, se dovesse cadere qualcosa giù, ma stiamo scherzando, facciamo fare bene le cose, no? Non si gioca, perché poi crei problemi al condominio, ti crei problemi tu e non va assolutamente bene, capito? Quindi io sono del parere che spendi qualcosa in più, però realizzi un impianto che ti dura nel tempo, ma soprattutto ti dura nella stabilità e nella protezione per gli altri e per te stesso, capito? È così, la realtà è quella, io non ho di questi problemi. Io ho sempre fatto le cose fatte bene, assolutamente bene, ma non bene, più che bene, perché ci tengo a non dare fastidio soprattutto agli altri, come gli altri non danno fastidio a me, tutto qua. Robè, cosa stavo dicendo? Ah, vabbè, domattina passo, ricordati che c'è da attaccare quella roba in quello sportello. Ehi, poi ti ho visto, te ne sei andato, sono uscito, mi hai detto, pensavo stessi rientrando, invece c'era gente, sei venuto in un momento, come si chiama, c'era un po' di confusione. Dai. Ok, Giulio, per il fatto della Mantova Turbo, io ce n'ho una per dirti, quella di Salvatore, che l'aveva tenuta a poco, poi l'aveva smontata e me l'ha data a me, che è nuova, però c'hai i tappini nelle cose, dei radialini, e ci hai pensato tu a mettere dei tappi? C'è tutto, vabbè, anche i tappi ci sono, anzi addirittura c'è anche il funghetto su in punta nello stivo, c'è anche il funghetto, perché io prima di montarlo il funghetto, siccome è di plastica, no? E gli avevo passato il isolante tutto attorno, in modo che il freddo e il sole, insomma, non seccasse la plastica, e se no sarebbero caduti giù tutti i rami, diciamo così, di questo funghetto. C'è tutto, se ti sto dicendo che è nuova, il piattello è lucido, proprio veramente bello, pulito, eppure l'ho usato almeno 5 anni. Per dire, no, l'unico problema che mi ha dato è il fatto, forse perché sono pignolo io anche, che ogni tanto non era cortocircuitata, infatti l'ho dovuta buttare giù 2 volte per sistemare quella questione lì, perché io parto dal principio, se è stata costruita per avere certe caratteristiche devono essere sempre valide, diversamente no, e allora facevo quel lavoro, la buttavo giù, la toglievo tutto e la sistemavo, e dunque il contatto c'era. Dopo un po' di tempo, magari 1 anno, 2 anni, e allora di nuovo da capo, niente contatto e niente cortocircuito tra polo caldo e polo freddo, e vabbè, comunque va bene lo stesso, dai, avanti Roberto. Sì, no, io sto parlando per il fatto del fischio, se metti i tappi sono sicuro che attenui, se non dovessero basare i tappi, basta farli sempre in materiale plastico, non materiale metallico, tipo dei triangolini, cercando di fissarlo con delle fascette, in modo che ti tolga la risonanza dell'elemento quando soffia il vento, che ti fa l'effetto flauto, dai. È capitato anche noi in officina, su delle macchine, per portabagagli che fischiavano quando camminava a una certa velocità, o uno sportello che entrava dell'aria sotto vicino al parabrezza, si fanno delle prove col coso, se era solo quello il problema del fischio, perché l'antenna alla Mantova vanno tutto è bene, dalla 1 alla Turbo alla 5, non ne ho sentito mai persone parlarne male, nel senso che qualche cosa di miglioramento, come l'ho fatto io o come lo puoi fare tu, si può fare, però strutturalmente è un'antenna abbastanza robusta, c'è gente che ce l'ha 30 anni montata, io ho visto gente alla Teroce ce l'ha più di 30 anni ed è sempre bella che è dritta. Vai giù da Luigi a Platamona, a Ottava, cacchio, la vedi sempre, di lì vento lo stesso ne prende in pieno, eppure bella dritta, basta montarle bene come devono essere montate, le antenne ti durano, non dico un'eternità, perché non esiste niente di eterno, però qualche decennio te le fai tranquillamente. Sì, beh, certamente sì, ma a Luigi non gliene può dare fastidio, perché lui ce l'ha montata nel garage e lui abita a fianco praticamente, per cui il suono del vento non le può dare fastidio, la differenza è quella, invece io no, sarà anche perché io l'ho montata allora dalla parte di dietro della casa, che è in corrispondenza con il muro dove appunto c'è il letto, si può immaginare, la testata del letto è appoggiata proprio in quel muro, ma anche tu mi dirai, ma l'antenna è in alto, certo, evidentemente suonava proprio per quel motivo lì, eppure la casa io ce l'ho a Brocchetti, a Brocchetti da 30, non è poco. Nonostante tutto, io durante la notte, anche perché qua nella zona dove sono io c'è un silenzio proprio di tomba, quando la notte, no? Senti, le mosche volare, puoi sentire se ci sono delle mosche, per dire, no? Però è successo così. Anch'io ho pensato tante idee, ma ho pensato anche di comprare quell'anello che è la 827 dell'Assirio, ma non va bene quell'anello, andrebbe benissimo per evitare questo fruscio che fanno i radiali. Avanti Claudio. Domanda, quanti anni c'è che non vai a casa di Luigi? A qualche annetto sicuramente. È parecchio, sì. Antenna di Gigi Vulcano l'ho montata io, ha fatto, dopo c'è la garage, ha fatto un'altra casa praticamente. L'antenna è nella casa sua, a fianco, in alto, abbastanza in alto, ed è a tegole. E lui a fianco c'è la camera da letto, quindi con l'antenna l'ho piazzata io. Ed è piazzata eterna, perché è qualificata bene, montata bene, a regola d'arte. Lui ha voluto mettere i tiranti giustamente perché è una zona molto avvoltilata, siccome è molto vicino al mare, e c'ha il nylon quello marino. Però con l'antenna l'ho montata io, ed è sul tetto adesso della casa, Giulio. Circa 4 metri di palo ed è montata sul tetto di casa sua a tegole, capito? E allora probabilmente l'ha spostata, perché io mi ricordavo che ce l'aveva nel muro del garage là. Ma adesso tu mi stai dicendo che lì ha costruito un'altra casa, bene così, meglio così. Vabbè dai, io siccome sono molto leggero e basta nulla per svegliarmi, e io durante la notte non resistevo, non potevo dormire, già dormo poco la notte, figurati un po', e poi incominciavano anche questo concerto del vento, e allora ho deciso, togliamola, non se ne parla più, però me la tengo, mi piace averla, anzi stavo pensando di mettere solo lo stereo centrale per avere una recensione almeno per le HF, è tutto lì, ma non so per quanto ne valga la pena, al limite posso mettermi un dipolo e probabilmente va anche meglio. Avanti Roberto. Sì, no, già vanno bene le antenne, diciamo. Io ho grosse differenze per quando sono di quelle lunghezze lì, perché molte volte dice uno, questa va meglio, cosa? Guarda, io conosco uno che aveva le due Mantova, la Mantova Turbo e la Mantova 1, montate una a fianco all'altra, ho fatto delle prove, non qua in un paese, affiancate le antenne, non dire era in campagna lui, non dire uno in un appartamento, uno nell'altro, affiancate, perché ha voluto fare le prove comparative. Adesso io non noto nessuna differenza, né da una né dall'altra, perché la Mantova Turbo nelle pubblicità dice che andava meglio della Mantova 1, era nei blitz, detto non cambia niente di niente. Molte volte si dicono poi valori di guadagno esagerati, 6 dB la Mantova 1, 9 dB la Mantova Turbo, cioè cose ridicole che neanche una direttiva giù mai riesce ad arrivare a quei valori di coso, di guadagno. Sì, infatti i valori non deve dare retta a quei valori lì, poi bisogna avere il valore ISO eccetera eccetera, non è corrispondente ad altro valore, questo anche deve tenere in considerazione. Sì, beh certo. No, tu pensa, sino a poco tempo fa avevo ancora la radio Galena che avevo costruito tantissimi anni fa. Beh, come antenna utilizzavo la Mantova Turbo, tu dovevi sentire come migliorava la ricezione della radio Galena. Anzi, non c'era bisogno nemmeno di mettere il filo di terra, perché per la radio galena deve mettere il filo a massa, perché se no non c'è niente da fare. Eppure ti dirò che io attaccavo la Mantova Turbo e sentivo le solite tre stazioni della radio galena, cioè la radio senza corrente elettrica, senza batteria. Se poi mettevo l'amplificatore che ho giù, io un farfisa, cioè uno, un coso, come si dice, uno, uno strumento professionale, no? Alto quanto è un comò, grande così, che c'è il piano, c'è la tastiera, l'organo, c'è tutto, le batterie eccetera, e ci sono gli ingressi, mettevo e utilizzavo l'amplificatore dell'organo ed era una radio normalissima, tranquillamente, che era una meraviglia. Avanti Claudio. Queste sono belle prove. Comunque, per dire a voi, io non ho mai avuto problemi con la Mantova Turbo, neanche con la Mantova 1, neanche con la 5, non fischiava. Ma fischiavano tantissimo gli elementi della direttiva, tant'è vero che su all'ultimo piano, al nono piano, abitano due signore anziane, e tutte le volte mi dicevano: signor Cla, ma quel rumore che sentiamo che sembra un fischio, che cos'è, l'antenna? Ho detto sì, quando c'è vento, se sentite un fischio non vi spaventate, dei frusci, delle cose, non c'è nessuno su Mansarda, non vi preoccupate. Avevano sempre paura che ci fosse gente in Mansarda, capito? E quindi glielo dicevo la verità. Tanto è vero che quando poi li ho smontate, un giorno li ho trovati giù che rientravano a fare la spesa, ho detto: beh, con quel vento l'altro giorno avete sentito? No, adesso quando fa vento forte non si sente più niente, perché non ci sono più le antenne. Ah, toglieli, ma non è che le ha tolte per noi, no? No, gli ho detto, ci sono buonissimi rapporti con queste signori, poi sono due zitelloni, mi chiamano a tutte le ore, anche l'altro giorno sono salito a cambiare la bombola, perché c'erano sempre la bombola di scorta, e quindi tocca stare sempre a me. A volte salgo a buttare la mondetta per non farle scendere in ascensore da sole, capito? Perché hanno paura. Quindi sono rimaste un po' così, e gliel'ho detto, no, le ho tolte perché non faccio più attività, insomma, gli ho detto la verità, non è ciò che a nascondere, e quindi le ho tolte. Però fischiavano tantissimo i radiali, vabbè, radiali lunghi, 8 metri, 7 metri 50, quindi robe, è proprio forse la lunghezza, ma adesso non so se, perché quei radiali della Mantova Turbo, essendo in alluminio, così lunghi, e poi sono 8, mi sembra che siano, sì, adesso non mi ricordo quanti sono tutti vicino all'altro, fischiano, invece la fibra non fischia, capito, perché la Mantova 1 e la Mantova 5 non lo fa questo problema, non lo fa l'alluminio, la base di coso di alluminio, capito, piano di massa l'alluminio lo fa soprattutto, e a me me lo faceva delle direttive, quindi è proprio una cosa storica dell'alluminio, quando è così in circonferenza, capito, fa questo problema, non è lo tiro centrale comunque. Va bene, sono le 8 meno un quarto, io per il momento mi allontano dalla radio, lascio tutto acceso come sempre e mi organizzo per portare il mio figlioletto che da lontano mi sta guardando. Allora, pongo la cappottina, col berrettino, i guanti, gli stivaletti, quelli in lana e lo porto giù. Avanti Giulio, riprendo. Ok qua. Beh, certo, è arrivato il suo momento e deve uscire, è giusto che sia così. Bene, buona passeggiata allora, quello che volete dica. Sei dalle 8 meno quarto quasi, meno 20, là, meno 18, all'incirca, meno 19, siamo lì. Per cui non è che mi trattengo molto, nemmeno io, comunque. Ancora siamo qua, dai, avanti Roberto. E allora io rimango qualche minuto, poi stacco. Ok, buona passeggiata con te per il cane, ma tu il cane portate o porti tu il cane? Non l'ho compreso, la classe è andato via. No, oggi ho visto ieri, lui sta dicendo, non so se lo faccia veramente, che ci abbia le scarpe il cane, e proprio ieri, domenica ho visto questa tipa col cane con le scarpe, ma le scarpe non erano tipo lanette, erano tipo stivaletti in plastica. Evidentemente le vendono, ci sono, c'è anche l'abbigliamento per i cani, evidentemente l'ha comprato e gliel'ha messo, e vabbè, e comunque non so quanto possono andare bene per il cane abituato a mettere le zampe per terra, poi, ma se le hanno fatte, ci saranno stati degli studi che hanno fatto e magari il cane li sopporta a certe cose, non lo so, vabbè, andare meglio così. Di cani non me ne intendo, anche se li rispetto, perché è giusto che sia così, ci mancherebbe altro, però non me ne intendo perché io non ce l'ho mai avuti, e non ne avrò mai, perché non prenderò mai un cane a casa, né un cane né nessun animale. Avanti Roberto. Anche io, a me piacciono gli animali, in particolare il cane, però in casa non terrei mai il cane, solo se c'hai una campagna, un posto tipo dove abita mio fratello. Scusate un attimo. L'ho portato mia figlia al cane, Giulio. Ah, avvisato, ti ha risparmiato l'uscita. Meglio così. Dunque possiamo rimanere ancora una decina di minuti parlando al baracchino, per cui va bene così, dai. Quindi dai giovani si fa la passeggiatina anche insieme al cane e ciccia. Visto e considerato che siamo obbligati a stare sempre ancora a casa. Ma a proposito, cosa è successo al governo? Ce l'hanno fatta a rifare il governo? Cosa maledetto ha ricombinato? No, giù ancora non c'è niente. Non lo so se c'è... riunione alla Camera stasera. Al Senato, non lo so. Non lo so. Poi guardiamo alle 8:30 a vedere cosa succede alle 8. Verso le 10:30 addirittura danno il referto medico, va bene. Torno dal cane, Giulio, io non è mai buttito, perché quel cane doveva stare da un'altra parte, invece quando è arrivato e ce l'aveva in braccio, era una cosa spettacolare da vedere. Mi sono innamorato e mia moglie ne ha fatto una malattia perché non lo voleva, qui e là, poi vuoi a toccarglielo adesso, è come un figlio, capito? Figurati, io sono nonno, mia moglie è nonna, e lui viene a nonna e sa dove chi lo sta chiamando, e mia figlia è la mamma, era un vicino mio migliore, ero babbo, quindi oramai è un figlio, capito? Ce l'abbiamo 8 anni, Giulio, come fai? Non ce la fai a staccarti, non ce la fai, purtroppo capisco che è un grande sacrificio, un grande lavoro, perché lo devi portare, devi accudirlo, la casa va pulita, disinfettata tutti i santi giorni, perché a casa mia non ve ne è fiaco di cane, a differenza di qualche altra parte che sono andato, mi sono spaventato, che ho visto, non a Sassari, per carità, però il cane è un grande impegno, io oramai ce l'ho, fino a quando Gesù Cristo lo lascia me lo tengo, quando non c'è più stai pur certo che non entrano altri, su questo non ci piove, a meno che non mi trasferisca in campagna, allora va bene. Certo, ma è così che deve essere, claro. Se uno ce l'ha il cane lo deve tenere come si deve, non può tenerlo così solo per il gusto di avere il cane va curato, va soprattutto amministrato nella maniera migliore possibile, sia in fatto di educazione anche per il cane stesso e soprattutto in fatto di pulizia, come stai dicendo tu, certo, io lo dico, e ci mancherebbe altro, perché se no la cosa non andrebbe bene. Voi, figurati, io ne vedo di persone, tutte tante genovaie, cioè, se fanno leccare la faccia dal cane, ma tu gli vuoi bene quanto vuoi, ma non devi fare queste cose secondo me, perché non è un gesto bello farsi leccare la faccia dal cane. Tu mi dai, ma il cane è sano? Sì, d'accordo, sano, è curato, lo porti al controllo, tutto quello che vuoi, però il solo fatto che quando lo porti giù, il cane è sempre un animale e quello ci mette il muso dappertutto e tu poi rientri a casa e ti fai leccare il viso dal cane, ma va per dire, io queste cose, vabbè, ognuno fa quello che crede, ci mancherebbe altro, ma io avendo un cane non gli permetterei mai di farmi leccare la faccia così, ma scherzando stiamo, oi, le gente che ce lo mangia in bocca, oi, lasciamo perdere, dai, anche se pulito o accudito nella maniera migliore possibile, perché è giusto che sia così, se no lasciamo stare ad altro il cane, quando lo sanno tenere, non ti prendere impegni quando poi magari non vuoi mantenerli, e il discorso è quello qua, avanti. Vedete che mangia impara un cane puro. Buonasera a tutti. Già ho sentito il bip, allora eri tu. Ciao a te, buonasera, ben ascoltato. No, Giulio, ma condivido perfettamente. esattamente, il cane rimane sempre un cane, a prescindere, ok? Che tu possa fare qualsiasi cosa per lui, rimane sempre un cane, un animale. E da cane va trattato, perché il mio è educato sia internamente che esternamente, ha le sue comodità come ho io, perché c'ha la sua brandina, c'ha il suo lettino, c'ha il materassino estivo, c'ha tutte le sue copertine, c'ha il lenzuolo come noi abbiamo nel letto, c'ha tutte le sue comodità che vanno lavate a parte, non di certo con la mia roba che io mi metto da vestire. Lui c'ha il suo posto, io c'ho il mio, ok? Questo non ci sono dubbi, ok? Io a baciare faccio a mia moglie e a mia figlia, non di certo metto a baciarmi a lui e non mi faccio leccare da lui. Quindi queste sono le normative che devono essere chiare. Su questo non ci piove, rimane sempre un cane con dove ha tanto affetto, ha tanta come si dice, ha tantissime cose, però è sempre un animale, quindi va trattato così. Ok, avanti Anto, buonasera. Capo, buonasera a tutti, non so chi ci sia. Così la penso anche io, perché insomma si sta esagerando. Niente, chi si manda un marito, cioè fate cucare un cane nel letto, sì. A quei livelli no, non ci sto più. Cioè, ho sentito storie allucinanti del cane. E non va bene così, non va bene. Oh, un attimo. Vai, vai, vabbè. E io devo andare via, dai, ci sentiamo, ciao Antonio, ti ho ascoltato un attimino, adesso devo fare cosa, ciao Antonio, ciao Giulio, ciao Claudio e tutti gli eventuali amici in questo canale, ciao ciao, io devo chiudere, cuoretti definitivo. Ciao, ci sentiamo domani, ci vediamo domani, ciao ciao. Ciao Roberto, ci sentiamo domani o alle prossime, ciao ciao, avanti Giulio. Ok, ciao Roberto, buonanotte, buona cena quando la farai, dai, ciao a tu, ben tratto. Sì, ma è così, ripeto, il cane ha bisogno di essere tenuto come si deve, dargli tutto l'affetto che vuoi, ed è giusto che sia così, lo devi curare, lo devi lavare, insomma, tenerlo bene, come una persona, come un figlio praticamente. Però, raga, figli, come stai dicendo tu qua, il cane è sempre un animale, e come animale va trattato con i guanti, non va picchiato, non va tenuto male, bisogna fargli sempre il suo bagnetto, bisogna portarlo dal dottore per fargli dei controlli, tutte queste cose, è giusto che sia così, lo devi far nutrire in maniera adeguata, tutto, se lo vuoi tenere bene devi fare tutte queste cose, però se permetti, come stai dicendo tu, cugani e cani, è la persona e persona, si è diverso il discorso. No, assolutamente no. Avanti qua. E si conferma, e così deve essere, ti ripeto, a lui non le manca niente, perché è un cane affettuosissimo, ha tutte le attenzioni immaginabili, qualsiasi cosa, ha i suoi giochi, come un cristiano, te l'ho detto, ha tutto, non le manca niente, lui quando c'è freddo c'è la sua addorma con la copertina sopra, c'è il lenzuolo che noi ogni giorno puliamo, mettiamo all'aria, c'ha tutta una parte che ti dico è molto molto impegnativa, parecchio impegnativa per me, però oramai è così e così deve essere, perché è un cane che ha già la sua età, è un bulldog inglese, è un cane molto molto come si dice delicato, sia nel mangiare che nel gestirlo, capito? Quindi bisogna stare molto attenti, e a me non ho i problemi di poterlo maltrattare, di fare, però rimane sempre un cane, non sta fuori, sta sempre contento con noi, sta solo quando c'è sole, lui vuole andare fuori, le mette il materassino su e lui sta lì traiato al sole, le piace tantissimo, però come manca il sole lui entra dentro e c'è l'altro materassino interno, sa dove andare, c'ha tutto quello che serve, però sempre un cane è da cane anda trattato, non c'è niente da fare. Avanti Anto, qualche altro passaggio poi ce ne andiamo a pappare. Capo mio, aspetto i panini oggi perché oggi non avevo una gana, troppo stanchi. Ora prendi roba da bassa, io sto facendo tutto il giorno roba dall'altra e aspetto i panini per mangiare, dai. Così è, cra. Proprio da Gani deve essere trattato. Cioè, è inutile che, cioè, molte persone preferiscono di più il cane del cristiano, è sbagliato quello. Deve essere trattato ugualmente, cioè, no, non va bene così. Infatti Giulio sta facendo questo, ma non è il caso mio. Io ripeto, ribadisco che al mio non le manca niente, ha tutto ciò che le serve, affetto e di tutto. Però è chiaro che non me lo metto nel letto, non me lo lecco in faccia, non mi faccio leccare in faccia, non mi lo bacio né nuda, lo accarezzo perché si avvicina a lui. Ogni 15 giorni lui va dalla vagista, quindi da Monica lì in via Pascoli, che da sempre era piccolino, infatti quando la vede impattisce, capito? E quindi così, perché non è che puoi fare il bagno o la doccia tutti i santi giorni come ce la facciamo noi, no. Lui ogni 15 giorni è sufficiente. In un mese lo devi lavare due volte, perché altrimenti puzza, capito? Se fosse... Se era per dire in campagna, ma l'avrei lavato più spesso a casa, ma portarlo molto molto, ho detto appunto che non va bene, c'hanno il pelo particolare, quindi insomma non va bene, soprattutto quando c'è molto freddo, che escono caldi dalle pulizie appunto che hanno, eccetera, e quindi è dosidrome, quando l'attacca quel phon grande, l'aria calda si droma, ogni volta che andiamo a pigliare drumido, immaginati tu quanto le piace il caldo. Va bene, dai Giulio, io ti rimetto il cambio, poi vediamo un po' se vi trattenete voi, ma io vi lascio che vado a preparare la cena, visto che mia figlia sta portando giù il cane a farci un giro, io mi dedico ai fornelli. A te Giulio. Ok, sì, beh certo, intanto mi hanno già chiamato, per cui anch'io adesso devo staccare per forza perché devo andare a tavola. Mi hanno già chiamato, infatti mia moglie sta già apparecchiando, le sento con la figlia che stanno apparecchiando. Va bene, dai, ciao qua, grazie della chiacchierata, allora ci sentiamo domani eventualmente. Se coincide, ma lo facciamo coincidere, per cui va bene così. Ciao Antonio, sei entrato un po' tardi, però mi fa piacere lo stesso riascoltarti. Dai, salutoni, buona cena a tutti e due, quando la farete io ascolto il vostro finalino e dopodiché stacco. Vai Antonio. Giulio. Sì, è avanti. Ciao Giulio, buonasera Fortunato. Volevo entrare ma non avete lasciato spazio, vabbè non è un problema, dai, io sto entrando sempre per salutarvi velocemente, saluto la ruota, non sto lì a ricordare i nomi perché ho avuto lì il passaggio dalle gallerie, dunque ho sentito a te Giulio, c'è Claudio, sarà l'ascolto Claudio, viceversa. Dai, riprendi Giulio con le scuse che sono entrato bruscamente. Ma figurati Fortuna, ci mancherebbe altro, è un piacere di... Ciao Fortuna, un abbraccio. Purtroppo mi hanno chiamato per la cena, se no mi sarei trattenuto ancora un pochino, almeno per cambiare quattro chiacchiere anche con te, mentre invece mi hanno già chiamato dalla parte bassa della casa, perché io ho la casa a Pio Livelli, per cui io sono in alto e la cucina è giù in tavernetta, perciò devo scendere. Grazie comunque per essere entrato a salutare Fortuna, alla grande sempre, sei un amico. Ti mando Claudio per i saluti, ciao Fortuna di nuovo, avanti Claudio. Mezz'ora che ti ha salutato Claudio. Salutoni Fortunato, senti Bombolo. Sì, no, ti dicevo molto bene qua, coordinati per come. Come sa Giulio, stato arrivando base trabacco. Adesso riprendete voi, senti, vi salutate da parte mia. Una buona cena. Fortunato, ciao Bombolo. Ciao, Giulio, come ricevi lì ali punti? Aspetta un attimo, saluto Fortunato, poi ti passo nuovamente a Giulio. Ciao Fortunato, dai che stavo, mi sono allontanato. Ciao, un abbraccio, cordialità, grazie di entrato a salutare. Riprendi Giulio, puoi girare che c'è anche Gianni, dai, per me QRT, ciao a tutti. Ok, ciao di nuovo Claudio, ciao di nuovo Fortunato. Sì, chiudo. Come al solito ti sento, Antonio, non c'è problema, sempre allo stesso modo. Stesso segnale, stessa radio. Ciao Gianni, salutoni. Chiudo, dai, che mi hanno chiamato per la cena, già per la seconda volta. Ciao Gianni, riprendi. Beh, ciao Giù, purtroppo sono dovuto stare al telefono e non sono potuto entrare prima. Vabbè, ci sentiamo, buona serata e buona carica quando la fai. Avanti. Salutoni Giulio, buon tutto quando lo fai. K, veloce, c'è ancora Fortunato, ci sei? Ah, non è più Fortunato. Ho già. Ehi, era Fortunato, dovrebbe aver chiuso, dai. K, ti sto andando pure io, devo portare giù il cane, fra poco, dai. Fra poco va. Ma chi te l'ha fatto fa? Che cosa? Il cagnetto. No, io per me è un piacere, anche perché mi fa camminare, mi sprona ad andare giù, mi sprona a uscire, no, ma per me va benissimo, non è un peso per me. Vabbè, io no, la verità, non riuscirei a tenerlo il cane, perché sto sempre lavorando, sempre tutte cose, capito? E come faccio a tenere il cane? Chi lo tiene? Ghidda deve fare così su e poi qua, dove cazzo me lo metto? No, preferisco così, fare così. E Antonio non ha i suoi modi di pensare, non è che ti stia dicendo che per forza lo devo prendere, però a me mi fa compagnia, mi sprona a uscire, a camminare, a fare passeggiate lunghe, poco mi si dice. Cioè, se fosse per me sarei tensione all'arma, guarda un po', se non fosse per uscire per lui, sarei tensione alla radio e non va bene, dai. Ma a me piace diversamente, quando comincia un bel tempo, più che altro mi piace scendermene al mare, capito? Sì, anch'io ci vado al mare, cosa vuol dire? Anch'io ci vado al mare. Quando vado al mare non lo porto, perché sarebbe farmi fare un sacrificio grosso, perché col caldo che c'è il cane sta male al caldo. Molta gente non lo capisce, però il cane solo il fatto che si fa il fosso per stare al fresco, al mare, perché non sta bene. Io non lo porto al mare, e poi quando vado al mare voglio star bene tranquillo, devo stare appresso a lui, che magari c'è di fare con gli altri cani e cose, no. Quello no, però io ci vado lo stesso al mare. Chi l'ha detto che non vado lì? A me il mare piace tanto. Sì, anche io ci vado molto. E con chi lo lasci? Con qualche dei tuoi figli? No, lo lascio solo, perché non è abituato lui a stare da solo. E quando andavo a lavorare con chi lo lasciavo? Da solo. Poi tornavo, lo portavo giù, uscivamo, facevamo una passeggiata, poi tornavo e mangiavamo tutti due insieme. Ah, ho capito. No, io non ho, cioè purtroppo per mancanza di tempo, no. Magari chissà, in domani, vediamo. Proprio per mancanza di tempo, deciso un manzano, cioè, e torno la gira, cioè. Cosa adoro, 2 minuti a pranzo, dopo c'ho con torno a bacende. Che lo bene che c'è un cane. Oh! E non c'è, un'altra ragazza, scusi. Può portare anche lì, giù, non è che va di mare a ripiare. Sì, ma qua poi no, non ne possiamo mettere cane, non c'è spazio. E poi lui è un po' contrario al padrone di casa. Io vabbè, non c'è il suo perché, ma io qua non c'ho nessuno contrario. Io il cane l'ho messo, sono in casa mia, non devo niente a nessuno e faccio ciò che voglio in casa mia. Lo so, e poi anche perché è un impegno, molte volte abbiamo le cose nostre, purtroppo no, quando sarò più grande, età vediamo, minando in pensione tutte le cose, vediamo se metterlo o no. Ma infatti, se uno non se la sente è meglio che non lo prenda, perché poi per abbandonarlo o trattarlo male è meglio che non lo prenda. Uno se la deve anche sentire. Guarda, io ho avuto una proposta da poco, stavano regalando dei cuccioli, ma io non ne ho preso perché c'ho già lui, se no me l'avrei preso. Troppo casino, doppio veterinario, doppio vaccinazione, pare così, ma avevano i burri di nami per tenerlo, cioè, molte volte bisogna fare anche delle scelte, mio, ma ogni due mangiare un cane. Cioè, perché molte volte non si hanno neanche la possibilità di tenere un animale. Io me lo ricordo quando c'erano i gatti. Cioè, ma ve ne pure nei poco di curi. Lo so. Io sono preso perché la possibilità ce l'ho, non resto senza mangiare il dice. Mangia lui e lui mangia carne mattina e sera, non c'è problema. La carne la mangia sempre, quindi grazie a Dio la possibilità ce l'ho. Il cane è un impegno grosso. Bianco un attimo! È un casino, io vabbè. No, a parte non è che me ne sono pentito, però non ci sarà una prossima volta. Perché è veramente un impegno. Se vai a lavorare, che cazzo lo tiene? Ha lasciato a casa tutto il giorno da solo, basta. Ma basta che tu lo abiti. Io poi vabbè, io tornavo a pranzo e non tornavo più al lavoro, non è come Antonio, io facevo dalle 7 alle 2, dalle 8 alle 3, oppure lavoravo la sera, capito? La mattina alla sera ce l'ho sempre. Guarda, il cane va bene in campagna, Gianni, in campagna sta da Dio, lo lasci libero, ovvio con una cuccetta, magari anche sotto una veranda così, per ripararsi, ma sta bene in campagna il cane. Io devo chiudere perché mi sono arrivati i panini, dai ci sentiamo dopo, più tardi. Sì, anche io sto andando. Ehi, Luca, ci sono i cani che possono stare, che va bene i cani che... possono stare, ci sono dei cani che sono da casa proprio in campagna, prendono freddo e gribali, ci sono certi tipi di cani che per la campagna vanno bene, però ci sono certi altri che sono delicati. Lo so, vabbè, già anche ti saluto, vado a prendermi il cane, eh? Ciao, a dopo, se ci sei, se no alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che avanti, che è con questo bistrano, avanti. Avanti amico! Ah, gatto, mi va la bernacchia, parla, se devi parlare, non mi va la bernacchia! Che? Massimiliano, tu sì! Che bipi bipi, avanti! Modifica devo fare, e già ci sta. Questo se usi questa radio devi avere la base giusta per appoggiarlo, finché non l'appoggiate non te la cadere, cioè di affischiare. Ti fai un piano, una mensolina, lo metti lì, come succede quando non c'è spazio, c'è un amico a sorso e ce l'hai con una mensolina, con l'alimentatore, e poi tranquillo e sereno, la notte lo copre col velo e è a posto. Non va bene, io ho il mobile qua, se li faccio lo spazio dovrebbe andare bene. Ma poi non lo chiudi, Antonio, deve essere ventilato, non lo devi chiudere dentro l'armadio questo. Oh, è che è chiuso, tu t'ha visto il tuo mobile, che è chiuso. Ma non l'hai visto il mobile mio com'è? Ah, quello che mi hai mandato, va bene. Vai, a dopo tu che passo veramente in cucina, ok? Ok. Adesso si può fare, dai. Se no già piglio il buco e faccio lo drabalo, vai. È un buon venato a messolino, ma non ve ne ho problemi. Vai. Andiamo. Che è? È bello. Mi ha detto l'insulina a mamma. Stai andando a fare l'insulina a tua madre. Dove gli dico che è adesso? Ma perché chi gli abiti? Che l'ha comprato la ragazza? No, era la mamma di lei. Diabetica, capito? Ma da così. Ma così, ho metto la radio. Guarda, c'è per la matese. Guarda, da così, 1, 2, 3. No, uguale. Non noto nessuna differenza, Lu. Sai, cosa hai fatto? Qualche miglioria? No, non mi fai c'è il macchinino chiuso, tu. Ma no, non la noto la differenza, la verità è. Non l'ho notata. Per i bello è entrato, per i bello. Già è entrato già poco fa. Claudio, per i bello, sì. Sicuramente c'ha il volume basso, c'ha lui. Adesso mi sto aspettando che faccia la lavatrice. Metto con la roba e la accendo. Due poli, ho capito, ecco. No, due poli. Io non lo ho per questo. sto cercando un capo della piazza. Capo della piazza? Di che piazza? Palimberi, del figlio di una amica, che è parrucchiere, e dice no. Ah, e non dirà un goccio. Non lo so, sto molto sentire, lasciate. E vabbè, la vola sto principale sicuramente. Sì. Come ti posso dire? Ma stavo leggendo sto cazzo della cosa, non ho capito niente. Però si dice che c'è un filo nuovo. Sì, grazie, adesso domani provo a tagliarlo quello. Aspetta, me la fanno la mamma. Che? Sì. Ma che vuoi andare, ma che? Beh, fatto guidare. È provolta, provolta. C'ho fame però, ma io poco fa. Le sofficini, corti in forno, col ketchup piccante, però c'ho fame. Ma c'è il formaggio piccante? Oh, con il ketchup piccante. Ma non mi piace. Quello normale ti piace? Sì, quello normale sì, ma il suo piccante non manda. Ma non ti piace il piccante in sé? Ma non mi piace proprio questa cosa bici denti, mamma mia. E pure quasi me, non sento, ne ha tanto la fatti me. Sì, ogni tanto lo mangio, ma non spesso. Come non sono d'accordo quando mettono qui i formaggi da spalmare che aggiungono il coso, il peperoncino, ma manco per sogno. Ciao, è buona ricotta mustia con la fresca peperoncino, cazzo. Ah no, deve essere mustia e basta. Io l'ho mangiata, ma la ricotta era buonissima, ma buona, ma poi da piccante, lui. Facciamo, l'ho preso mezza forma, ma rilassa una forma. Fatta butto nel 15 euro mi pare. Infatti devo chiedere se riesco a procurarla. Buona, anche c'è una ricotta. Si affresca di pecora. Nata di vacca non mi piace. Di pecora un po'. Se è fresca di da beta ambrusa. Oh via. È buona, sì, ecco qua. Mamma mia. Mi sto guardando canale 34. Mi ha dato film billini. Preferisco mangiare i formaggi naturali col suo piccantino. Vabbè, a gusti. Cioè, a gusti, come dici tu? Si deve proseguire con la traiettoria di una o più colonne di veicoli. Mi stavo leggendo questa cosa. Ho messo la voce guida. La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti nella stessa direzione. Allora, tu, c'hai tu quel comando, dici, ok Google, ce l'hai. Già, ma adesso c'ho il coso dei quiz, perché? Ah, devi dire, come si dice, cavallo in sardo? Paddo. No, tu dillo a Google. Si dici, ok Google, ma si dice cavallo in sardo, prova a dirgliela per te. Minchia guado, ti dici forse. Diglielo, no, prova. Cambio lo aspetto. Wow, quasi finito il quiz e poi vado. Aspetta un attimo. Ah, c'hai il coso nel telefono, il quiz nel telefono. Ehi. Ma te ne devi fare errori? 4 per passare. 4 errori con 40 domande. Ah, 3 sono adesso. E sono uscita la prima, mi. E te l'ho presa prima artista, mi canto. Ti ho detto che sono 4 domande. Da sbagliare. 40 domande. 30 domande sono quelli della M, quelli della patente del motorino. Ma tu che patente stai prendendo? B. Ah, la B. Sì, la B. Beh, ci serve. Perché non abbiamo la macchinetta. Gappa. Oh, ce l'ho la bellezza di 22 anni. Gappa, ma... Quando hai quanto ce l'hai tu? Quando hai il biglietto a due era più facile, adesso ti spaccano il culo. Cazzo più facile, cazzo per la privatista più facile, perché sono da scuola guida io. Privatista, a voce l'ho dato l'esame, cazzo è più difficile. Vuoi fare a botte? Ah, va. Vabbè. Ma è più difficile, capito? Poi c'è scritto meno male, riesci, capito, a aggiustare meglio, anche se è difficile lo stesso, attenzione. Però la voce, capo. Scappa. Io mi gioco a far rendere questi guizzi, sto facendo tanti perché devo fare l'esame.